chiamo Isabel e leggo perché per me la lettura è stata sempre un rifugio. La lettura per me è anche uno stato di inquietudine, dell'anima che ha sempre bisogno di sapere, e dei libri ci danno questo alimento. Leggo il libro della inquietudine di Fernando Pessoa. Nelle ore in cui il paesaggio è un'aureola di vita e il sogno è soltanto sognare se stessi, ho innalzato, amore mio, nel silenzio della mia inquietudine, questo libro strano come portoni aperti alla fine di un viale abbandonato. Per scriverlo ho raccolto l'anima di tutti i fiori e con i momenti effimeri di tutti i canti di tutti gli uccelli ho tessuto eternità e estasi. Tessitrice, mi sono seduto alla finestra della mia vita e ho dimenticato di abitare e vivere, tessendo sudari per avvolgervi il mio tedio, tovaglie di castolino per altari del mio silenzio. E ti offro questo libro perché so che è bello e inutile. Nulla insegna, nulla fa credere, nulla fa sentire. Rusello che scorre verso un abisso cenere che il vento disperde e non è fecondo né gramo. Vi ho messo tutta l'anima a farlo, ma non ho mai pensato a esso mentre lo facevo. Solo a me che sono triste e a te che non sei nessuno. E proprio perché questo libro è assurdo, io lo amo. Perché è inutile, lo voglio regalare. E perché non serve a niente volertelo regalare, io te lo regalo. Prega per me quando lo leggi. Benedicimi amandolo e scordandolo come io scordo quelle donne meri sogni che non ho mai saputo come si sono sognate. Io sono Daniela e leggo perché sono alla ricerca di una verità. I giorni perduti di Dino Buzzati. Ti ho visto portare fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa sono tutte queste casse? Quello lo guardò e sorrise. Ne ho ancora sul camion da buttare. Non sai? Sono i giorni. Che giorni? I giorni tuoi. I miei giorni. I tuoi giorni perduti. I giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Ringraziamo Isabel Chimeno Benitez e Daniela Carati per il loro intervento e passiamo ad altre testimonianze. E adesso è la volta dell'arcigay Laprodo Stilia Mulas di Genova. Vi lascio all'ascolto delle prossime testimonianze. Ciao a tutti, mi chiamo Antonella e leggo perché è uno dei modi attraverso i quali posso entrare in sintonia con i tanti pensieri e le tante menti che abitano questa terra, così da allargare i miei orizzonti. E questo mi dà la possibilità di allontanarmi dai miei problemi personali e immedesimarmi in quelli degli altri, e magari capire anche che in fondo non siamo poi così diversi. La frase che voglio leggervi oggi viene da uno dei miei libri preferiti, che è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, che cito: «Qualcosa accadrà, non può non accadere. Per quale motivo, infatti, avrei avuto in sorte questa sofferenza per tutta la vita? Riconosco di aver mentito e ingannato e di aver avuto una vita segreta, sconosciuta agli uomini, ma non si può punire per questo tanto crudelmente. Qualcosa sicuramente succederà, perché non può non accadere che una cosa duri eternamente». Io sono Luisa e leggo perché mi piace. Ma perché mi piace? Perché un libro, insomma, mi proietta in un mondo nuovo da esplorare, mi insegna cose nuove e mi distoglie anche solo per un po' da quelle che sono le preoccupazioni e gli stress quotidiani. Insomma, mi rilassa. Oggi leggerò Gli amori impossibili di Anna Paola Concia, tratto dal libro Le cose cambiano. Cara Giulia, ieri ho incontrato tua madre. Le ho chiesto di te, mi ha risposto che hai iniziato una nuova vita, sei fidanzata con Margherita, sei felice e a volte preoccupata. Mi ha raccontato di aver pianto di gioia e di paura, sentimenti contrastanti che capisco. La gioia è di vederti felice, la paura è nei confronti della nostra società, delle sofferenze che potresti dover affrontare, della cattiveria altrui. e lei vorrebbe proteggerti da tutto questo. Mi ha chiesto aiuto, l'aiuto di un'amica, ma soprattutto di una donna che con la sua storia può essere un esempio per tante ragazze e ragazzi omosessuali. Mi ha chiesto anche di parlarti, di raccontarti come le cose sono andate per me, di aiutarti a essere serena, di darti coraggio. Credo che implicitamente mi stesse chiedendo di darlo anche a lei e a tuo padre. Ti scrivo per questo, piccola mia, lasciamelo dire, visto che ti ho tenuta in braccio quando eri appena nata. Anche perché dialogare con te è come farlo con tanti ragazzi e ragazze che mi hanno chiesto consiglio in questi anni. Io sono Stefano. Leggo innanzitutto perché mi piace tantissimo. In realtà poi appunto non so se c'è una ragione forse più profonda e importante di questo per me nel leggere. Nel senso, al di là del fatto di poter ampliare così conoscenze, orizzonti e far volare l'immaginazione, è proprio una questione puramente di piacere, una cosa così estremamente naturale. Infatti c'è una frase di Harper Lee molto bella che dà Il buio oltre la siepe, che è questa: fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura. Si ama forse il proprio respiro? Mi chiamo Simonetta e leggo perché leggere può darti la possibilità di vivere non solo la tua vita, ma anche altre vite, e quindi alle volte di scappare dalla tua vita o semplicemente immaginare che la tua vita possa essere qualcosa di migliore o comunque di diverso. E oggi leggo Adorata creatura, un pezzo tratto da Adorata creatura, che è il libro che raccoglie tutte le lettere di Vita Sackville-West a Virginia Woolf e viceversa. A Vita Sackville West. Sì, dolcezza mia, sarò a casa tua tutta la sera di lunedì e ti aspetterò in qualsiasi momento dopo le 5. Non preoccuparti, con me puoi essere infelice quanto vuoi. Io stessa ne ho la propensione. A Virginia Woolf. Mia adorata, non c'è nulla al mondo che vorrei più di cenare sola con te domani sera. Non osavo proporlo, non pensavo che saresti stata sola. Arriverò verso le 7, va bene? A Virginia Woolf. Mia adorata, sei non solo la più intelligente persona che conosco, ma anche la più gentile. Non dimenticherò proprio mai quanto sei stata dolce con me. Hai un unico serio rivale nel mio affetto, ed è il Potto di Bosman. Devo dire che lui è irresistibile, anche tu. Non che io abbia tentato granché di resistere da quella sera, qui, in cui ti comportasti così scandalosamente fino ad oggi. Non so dirti quanto mi piace The Sun and the Fish, e ordino una copia di Time and Tide. Sarò felicissima se verrai venerdì, ma non voglio che ti stanchi. So che sei occupata, quindi non sentirti legata, amore mio. Ma se vieni, puoi portare il disegno di Vanessa? Max Beerbohm dica pure la sua, ma non sa chi sei veramente, né che cuore d'oro hai. Io ti amo, tua Virginia. Sono Livia. Io leggo perché combatto i pregiudizi.